spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E ben ritrovati, mentre siamo alla ricerca di capire cosa rimane di quelli che sono stati e sono stati definiti un po' braccio di ferro, sono stati definiti un banco di prova per la tenuta dell'Europa. Insomma, quello che è accaduto in Grecia, c'è un volto storico della sinistra greca che oggi parla, rilascia un'intervista su Repubblica, lui si chiama Stelios Pappas e attacca ancora una volta l'Unione Europea. Dice: l'obiettivo dell'Unione Europea era uccidere questo governo e l'Europa è un campo di lotta, anche se poi conclude: non possiamo uscire dall'euro perché significherebbe, come vuole qualcuno, isolarci geopoliticamente. Questa è una strada che la Grecia non si può permettere di percorrere. Chiaramente si parte dalle dimissioni di Alexis Tsipras, è stata una scelta necessaria, come è stato necessario, ha ribadito Pappas, percorrere la via del referendum. Chiaramente il popolo greco sa che l'unica possibilità di uscire dalla Grecia, continua Papa, se c'è, è in mano a Siriza e a Tsipras, e adesso lo sa anche l'Europa, che però ha tentato in tutti i modi di sabotare questo governo. E l'accordo chiaramente a questo punto è stato accettato, migliore di quelli precedenti, lo definisce questo storico greco, con una deroga al surplus di bilancio che da sola vale 20 miliardi di euro. Quindi qui noi abbiamo conservato parte della nostra autonomia decisionale. Continua dicendo che le leggi le scriviamo noi, non ci vengono recapitate da Bruxelles, a differenza del passato, e dunque una difesa, diciamo così, della sovranità greca. Un tema che affronteremo tra poco. Ma prima di parlare della Grecia, ha voltato pagina, c'è stata una metamorfosi di Tsipras, ha scritto la storia, con la Troica in qualche modo si è tracciata una linea da cui non si torna indietro. Questo è quanto naturalmente ancora ha un punto interrogativo. Alexis Tsipras aveva detto, lo ricorderete, nella notte tra il 25 e il 26 gennaio del 2015, davanti alla folla che festeggiava il suo trionfo elettorale, è come se Davide sconfiggesse Golia, trasformeremo l'Unione Europea dal suo interno. E cosa è successo dopo? Come si è snodata la storia della Grecia nelle giornate successive? Mentre continuiamo a cercare il nostro ospite che tra poco dovrebbe con noi portarci a questa analisi, parliamo anche di quello che invece affronteremo nelle pagine più italiane, diciamo così, di spunti di vista. Ci soffermeremo sui consumi, i consumi di alcol, i consumi di birra, perché naturalmente quando si parla di aperitivi alcolici, amari, superalcolici, vino, birra, a volte scatta un allarme sociale, ma anche in questo campo i dati segnalano una tendenza che fa sperare, nel senso miglioramento. I giovani di oggi, pensate, bevono molto meno di 7 anni fa, questo secondo i dati Istat, anche se naturalmente rimane una fascia molto a rischio, soprattutto quella dei minorenni, che in teoria contatti con l'alcol non ne dovrebbe avere di nessun tipo, e per il divieto di vendita di bevande alcoliche, naturalmente per questioni culturali e di mentalità che dovrebbero diffondersi sin dalle abitudini familiari. Diciamo trasmettersi già in famiglia, nonostante ci sia sempre questa delega denunciata dagli insegnanti di educazione a al mondo della scuola. Già in famiglia si dovrebbe imparare a consumare alcol con responsabilità quando si comincia, associarlo al pasto e soprattutto non consumarlo quando si è minorenni. Ebbene, il Guardian segnala una situazione che per la prima volta ha cambiato le abitudini di consumo dei consumatori britannici di vino e alcol, cioè vale a dire il consumo crescente di prosecco, la vendita di prosecco, uno dei prodotti ai quali è intrecciato a doppio filo il brand, il Made in Italy, ha superato in Gran Bretagna e non solo il consumo e la vendita di champagne. Elisabetta Montesissa, buongiorno. Buongiorno. Grazie per il suo tempo. Lei è responsabile della Fondazione Campagna Amica di Coldiretti. Noi partiamo da quest'ultimo dato per segnalare una penetrazione del Made in Italy per quel che riguarda il vino che non ha precedenti. Ma certo, abbiamo visto una grande conquista, se così si può dire, delle vendite dello spumante italiano all'estero, che fanno segnare un record, un aumento del 20% rispetto agli anni precedenti di tutte le bottiglie spedite all'estero. Un aumento del 20%, quindi in termini assoluti? In termini assoluti noi esportiamo, bisogna dire che noi esportiamo 20 milioni di ettolitri per un totale di 5,1 miliardo di euro di fatturato rispetto all'estero e diciamo che è molto importante. L'anno scorso abbiamo venduto all'estero 320 milioni di bottiglie di spumante. E questo secondo lei come si spiega? Diciamo che il vino per noi rappresenta una goccia della nostra storia e rappresenta il biglietto del Made in Italy insieme al turismo. Siamo stati molto bravi a diffondere e a promuovere il Made in Italy grazie anche alla qualità delle nostre aziende vitivinicole, che ogni anno e in ogni momento non perdono occasione per aumentare la qualità del nostro vino e per diffondere questa qualità. E poi tra l'altro un dato che corre da questo, addirittura le esportazioni della birra italiana sono aumentate del 27%. Del 27%, perfetto. Quindi questo dirette dimostra anche nel Regno Unito, e questa la curiosità che ha catturato la fantasia, l'immaginazione e tanti articoli che in questi giorni la stampa internazionale sta dedicando a questo fenomeno. Diciamo che l'Expo ci ha aiutato molto. Vediamo nei milioni di persone che passano all'esposizione universale l'attenzione per il Made in Italy, l'attenzione per il cibo e soprattutto l'attenzione per l'artigianalità del cibo italiano. Come Coldiretti, nel nostro padiglione abbiamo ogni settimana esposto il meglio del Made in Italy, il meglio dell'artigianalità delle aziende agricole italiane, anche quelle più piccole, ma che rappresentano un biglietto da visita importante, a partire dal vino fino a tutti i nostri prodotti di eccellenza come salumi e formaggi. Ora, dice il Guardian, la vendita di prosecco da solo è aumentata del 72% quest'anno fino alla registrazione, diciamo, alla verifica di metà luglio. A metà luglio si erano importate bottiglie di prosecco per un valore complessivo di 339 milioni di sterline. Questa è la ricerca citata dal Guardian, che parla di una bevanda alla moda. Attenzione, perché dietro questo aggettivo, dietro questa definizione della moda, si intreccia poi un rito collettivo, che è quello dell'aperitivo, molto diffuso in Italia, e che potrebbe nascondere un'altra forma di dipendenza soft, come dire, e appare sempre più come un rito innocuo al quale partecipano decine di migliaia di persone, anche giovanissime, soprattutto nelle grandi città, ma racconta molto sulla società di oggi. Noi però rimaniamo alle cifre, grazie alla nostra ospite Elisabetta Montesissa. Questo è un fatturato record che si sta realizzando grazie a vino e spumante italiano. Come sono invece i consumi in Italia rispetto a questo tipo di elementi che abbiamo preso in considerazione? Diciamo che in generale il consumo di vino in Italia è notevolmente ridotto rispetto ai periodi del dopoguerra e quant'altro. Questo, diciamo, merito di un consumo però responsabile, più consapevole. Abbiamo ridotto in termini di volumi, ma migliorato in termini di qualità. E questo è fondamentale. Anche come Coldiretti diffondiamo nelle scuole l'importanza del consumo consapevole e l'importanza del consumo del nostro vino, a differenza delle bevande superalcoliche o, come le chiamo io, dei miscugli, che molto spesso provocano effetti dannosi per la salute, soprattutto dei giovani. Quindi molto meglio un bicchiere di buon vino di qualità che non una miriade di cocktail che effettivamente non fanno per nulla bene alla nostra salute. È vero che sono state esportate perfino in Francia più bottiglie di champagne, più bottiglie di prosecco di quante bottiglie di champagne siano poi state importate in Italia. Vi risulta dati alla mano? Sì, sì, assolutamente. Noi in totale esportiamo 1.400.000 ettolitri di prosecco. È il vino più esportato, per un totale di 500.000 euro di fatturato, e quindi rappresenta il 60% del totale dell'export. Quindi dei volumi significativi non soltanto in termini economici ma anche in termini sociali. Cioè, noi portiamo il Made in Italy in tutto il mondo. Il primo paese importatore di spumanti, di vini italiani, sono sicuramente gli Stati Uniti, a seguire la Gran Bretagna, ma anche la Cina. Cioè, è un biglietto da visita fondamentale. È per questo che dobbiamo assolutamente, mi unisco a questo per dire, combattere le imitazioni. Insieme al prosecco si trova un vino che si chiama Cresecco piuttosto che Mersecco, trovati prodotti in Germania, e che non fanno altro che imitare i vini italiani, ma rovinando comunque l'immagine del Made in Italy. Quindi insieme alle istituzioni dobbiamo fare in modo che questo fenomeno della contraffazione diminuisca sempre di più. Ecco, la contraffazione per il Made in Italy rappresenta 60 miliardi di fatturato. Un importantissimo settore dell'economia al quale forse guardiamo con meno attenzione, notate anche voi di Coldiretti, cioè minore attenzione in Italia rispetto alle esportazioni di vino, e invece sembra che nelle vie del mondo alla parola Italia si associno pochi brand, e uno di questi è sicuramente il wine. Ferrari and wine è spesso la risposta che si raccoglie quando si cerca di fare, come dire, un'associazione di pensiero tra ciò che l'Italia evoca, e al di là del fatto che sia come riduttivo rispetto a quello che questo paese ha ad offrire, è senza dubbio una realtà consolidata. E a volte essere associati come produttori di vino, di prosecco, come avete sentito, e addirittura di birra artigianale, non aiuta alla diffusione di un consumo adeguato, di un consumo che sia responsabile, come lei ha detto, Elisabetta Montesissa, anche se segnalano gli antropologi dei miglioramenti in termini di consapevolezza sul consumo di vino alcolici perfino tra i segmenti più giovani della popolazione, finalmente in Italia si stanno registrando. Continueremo a parlare di questo aspetto tra pochissimo, andremo in Gran Bretagna per cercare di capire con importatore di vino in Gran Bretagna cosa determina questo successo del Made in Italy. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Quali sono le ragioni del successo del vino, del prosecco italiano in Gran Bretagna, segnalato dalla stampa internazionale come il grande fenomeno di consumo? E ce lo può spiegare chiaramente chi questo vino lo importa in Gran Bretagna. Lui si chiama Gabriele Nodari, l'abbiamo sentito proprio per chiedergli a cosa è dovuta questo sorpasso del prosecco italiano rispetto allo champagne. Hanno una lunga storia gli italiani in Inghilterra. Molti anni fa era di moda il Frascati, era di moda il Chianti. In questo momento gli italiani, esatto, che vanno alla maggiore, rimane comunque inalterato da un fenomeno inspiegabile, il Pinot Grigio, che piace molto sia alle vecchie generazioni sia alle nuove. Forse anche dal nome, probabilmente il nome lo rende simpatico agli inglesi. Il Pinot Grigio in testa, seguito da tutti gli altri vini, ripeto, Nero d'Avola, primitivo, prosecco ha avuto un'ascesa negli ultimi 4-5 anni. Diciamo che l'Italia fa storia dal punto di vista della cucina e di conseguenza moda e altre cose, quindi gli inglesi quando vengono in vacanza riescono a percepire gli aspetti così positivi dell'Italia, ahimè, e lo trasformano poi qui. Chiaramente tutto quello che è italiano ne risente di benefici, addirittura adesso anche la birra, soprattutto per il fatto che gli inglesi sono molto legati alla ristorazione, tutto quello che concerne i prodotti dall'Italia, quindi il vino in particolare. Questa è la ragione fondamentale, ecco. Oltretutto poi sicuramente non parliamo, sono sempre prodotti abbastanza buoni, insomma, non è che parliamo di prodotti solo unicamente legati alla moda o al fashion. In generale un po' tutte le classi economiche, le classi consumano vino, evidentemente vini di un certo costo vengono utilizzati nella city dove sicuramente persone si possono permettere determinate spese, determinati vini, dall'Amarone al Brunello di Montalcino, insomma vini di un certo target, mentre nelle zone di villeggiatura, nelle zone centrali dove c'è anche uno status più inferiore, si consumano i vari Montepulciano, tutti i vini di costi inferiori. E tutte queste osservazioni, naturalmente, tutti questi dati si intrecciano all'attenzione crescente all'estero e verso il vino, ma anche osservazioni sui modi di consumare il vino da parte di giovani e non solo. Abbiamo sentito perfino il venditore che vi abbiamo proposto, Gabriele Nodari, che importa vino italiano in Gran Bretagna, a dire: purtroppo l'Italia, ahimè, è associata anche a questa sostanza. Naturalmente l'ha detto contro il suo interesse, lui importa vino, ma a volte soprattutto gli stranieri si concentrano in Italia sul fatto che, nonostante esista una legal age, come viene definita, in realtà il vino, la birra vengono venduti facilmente a tutti, soprattutto nei nostri bar. Di certo non si chiede la carta d'identità o la possibilità di identificare l'età del consumatore con quell'assiduità, con quel rigore che invece viene adottato all'estero. Elisabetta Montessissa, questo è un dato innegabile. Sì, sicuramente. E la cultura, il fare cultura deve partire da ognuno di noi, dall'agricoltore, ai ristoratori, ai commercianti. Non è una questione soltanto di carta d'identità e di legalità, ma è una questione di insegnare. Un bicchiere di vino bevuto correttamente, anche fuori pasto, non provoca nulla, ma occorre insegnare che il vino si beve non per ubriacarsi, non per sballarsi in quanto alcol, ma all'interno di un bicchiere di vino c'è una parte di storia. So che è un discorso molto complicato, ma se tutti insieme, attraverso progetti che si stanno già realizzando, riusciamo a trasferire anche nelle scuole, anche sui banchi di scuola, questo concetto, sarà molto più facile combattere il discorso del consumo di alcolici per il semplice fine dello sballo. Eppure sembra che in qualche modo qualche risultato si stia raccogliendo. Basti pensare che in Italia tra il 2007 e il 2014 si è verificato tra i giovani un calo di consumo generalizzato. Si beve meno dei coetanei europei, ma questo era vero anche prima. Si beve di più nelle grandi città, secondo i dati Istat, e quelli che aumentano sono i bevitori sporadici, cioè c'è un calo del bevitore abituale, anche se va registrato contestualmente una crescita dei consumatori di birra, cioè sono saliti tra i giovani consumatori di birra dal 9,3 al 9,8%, e tra questi consumatori di birra si registra tra l'altro anche un'impennata delle donne. Nel nord Italia i bevitori rispetto alla popolazione, i bevitori abituali, oscillano intorno al 53-55%, mentre nel sud sono sorprendentemente meno, sono intorno al 44 con punte del 47%. E le regioni dove si beve di più sono la Valle d'Aosta, l'Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia, mentre si beve di meno in Sicilia, Puglia e Basilicata. La sorprende Montesissa questo aumento della consapevolezza nel consumo di alcolici, o è il segnale che forse le campagne stanno raccogliendo piccoli risultati, anche se poi permane quel dato preoccupante del binge drinking, cioè del bere, dell'uscire con gli amici a bere fino all'ubriacatura pesante, da star male, il coma etilico? Diciamo che il risultato che lei ha detto è l'obiettivo che si sta lentamente raggiungendo da parte delle nostre aziende, ma anche da parte delle organizzazioni. Noi lo vediamo quotidianamente come Coldiretti all'interno del padiglione di No Farmers No Party di Expo. Abbiamo notato in questi mesi l'attenzione da parte dei giovani alla qualità. I giovani non bevono ma degustano, amano fare percorsi di degustazione, percorsi di cultura, l'abbinamento cibo-vino è una cosa molto molto importante, amano assaggiare e amano sempre collegare al vino il territorio. La bottiglia di vino non è, come dicevo prima, un semplice alcolico, ma è un pezzo di territorio, è l'espressione del territorio, e questo i giovani lo stanno notando molto, tant'è che cercano proprio il contatto diretto con il produttore, amano ascoltare il produttore che racconta la filiera che ci sta dietro una bottiglia, la passione e la professionalità che i nostri agricoltori mettono all'interno di una bottiglia, e questo è un risultato veramente molto importante. Dobbiamo continuare in questa direzione da parte di tutti, ma è un risultato che stiamo raccogliendo. Si diffonde sempre di più il rito collettivo, che 30 anni invece non era così in voga, vale a dire quello dell'aperitivo, che si sta trasformando sempre di più in apericena, cioè si sta abbinando la scarsità di tempo di questa società interinale, come l'hanno definita i sociologi che analizzano il fenomeno dell'aperitivo, alla scarsità di soldi e alla possibilità di interagire fisicamente staccando gli occhi da monitor e smartphone. Queste connessioni fisiche incentivate dall'aperitivo possono portare però attenzione, happy hour e dintorni portano spesso a una dipendenza soft di cui si ha una scarsa consapevolezza. E con questa annotazione che ci viene dai nostri messaggi SMS voglio ricordarvi i numeri della trasmissione. Allora, al telefono, numero verde 800 24 00 24, mi dicono di cominciare da questo. Abbiamo poi i numeri SMS al 349 238 6666. Questa pagina del Made in Italy, che ci è stata illustrata oggi grazie a Elisabetta Montesissa da Coldiretti, naturalmente è stata, come dire, segnalata prima dalla stampa internazionale che dalla stampa italiana. Colpisce questa crescita dell'export estero di prosecco e di birra Made in Italy, lei ci ha detto, soprattutto in Gran Bretagna e Stati Uniti. Quali sono le altre destinazioni dove arrivano le bottiglie di vino bianco con bollicine che partono dall'Italia? Beh, sicuramente la Cina ha avuto un aumento notevole del nostro vino, ha iniziato a importare notevolmente, ha aumentato il nostro vino, quindi la Cina anche soprattutto nei periodi, diciamo, natalizi e di Brindisi è uno di quei paesi in cui il nostro spumante va per la maggiore, ma anche, come si diceva prima, i paesi del nord Europa, ma anche la Grecia, ma anche paesi che iniziano ad approcciarsi al vino in un modo diverso. Non dimentichiamo la Russia. La Russia è un paese che sta emergendo notevolmente, il Canada. Ci sono una serie di paesi che stanno sempre di più riconoscendo la qualità dei nostri vini, perché poi non dimentichiamoci che lo spumante è un mondo molto molto vasto, è un vino di altissima qualità a livello nazionale che comprende il prosecco, ma comprende anche ad esempio l'assi spumante, comprende il Franciacorta, quindi ci sono una serie di vitigni e di vini che rappresentano il fiore all'occhiello dei nostri spumanti italiani. Clienti sempre più entusiasti della qualità e dell'Italian style, dunque, nel Regno Unito e non solo. E concludiamo questa conversazione con Elisabetta Montesissa. Grazie per il suo tempo. Grazie a voi, buona giornata. Responsabile della Fondazione Campagna Amica di Coldiretti. È arrivato il momento di controllare la situazione della circolazione, del traffico. Siamo reduci da un weekend di bollino nero e per le ultime partenze e per il traffico e le code create invece da chi rientrava in città. Vediamo come va ora, 8:45 di lunedì 24 agosto. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Attenzione, io a Londra ho visto ragazzini ubriachi che barcollavano a ogni angolo. Questa Alessandra che ci segnala la sua esperienza e le sue osservazioni sui modi diversi di bere che ci sono in Italia e all'estero. Ormai però ragazzini ubriachi si trovano anche dalle nostre parti, cara Alessandra, che barcollano a ogni angolo. No, però quando si beve, arrivare fino all'estremo, evidentemente una moda che abbiamo importato dal mondo anglosassone, non solo dalla Gran Bretagna, dal Canada, dagli Stati Uniti. E l'elemento prezzo, 2 euro a bottiglia il prosecco, 30 euro lo champagne, lo vogliamo ricordare? Ci ricorda Riccardo da Roma, chiaramente è uno degli elementi che ha determinato questa penetrazione del prosecco anche nelle abitudini e negli stili oltre confine. Ho bevuto un prosecco prodotto a Cuneo in Germania. Dovremmo proteggerci anche in Italia dalle imitazioni, Corrado? E queste sono alcune delle domande che suscitano questi dati che tanto scalpore hanno fatto soprattutto in Gran Bretagna, dove da sempre il vino bianco, diciamo così, con le bollicine, tanto per semplificare, era associato solo esclusivamente alla Francia. Abbiamo anche Franco da Vicenza, pronto, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io sono un produttore, fra l'altro. Ascoltavo dalla cantina che sto preparando per la vendemmia. Una delle cose che ci dà più fastidio proprio è il confronto fra lo champagne e il prosecco. Proprio come produttore parlo, perché comunque sono due cose che non sono assolutamente confrontabili. Quando si fa un confronto fra le pere e le mere non è possibile per il prezzo, per il modo che, cioè, hanno tutte e due le bollicine ma non sono confrontabili. Questo è chiaro, però capisce anche che nell'immaginario collettivo sono spesso assimilati, cioè soprattutto appunto, da chi ci osserva all'estero, da chi vi beve all'estero. Assolutamente sì, questo lo capisco, però è questo forse il sistema anche per i giovani, per riuscire a evitare che usino il vino solo per sballarsi, usarlo per come cultura, e facendo corsi, facendo conoscere il vino, perché uno che ama il vino non si sballa, e questa è una delle cose fondamentali. Io ho visto tanti ragazzi che frequentano corsi di degustazione e poi hanno un approccio al vino e al bere ben diverso da quello che avevano prima, che era quello di mandare giù qualsiasi cosa che avesse un po' di alcol. Questo è molto interessante. La consapevolezza dunque spinge a un consumo più moderato, e ci ricordano infatti che i greci, che hanno inventato la dieta mediterranea, misuravano la quantità di alcol col simposiarca, avevano proprio uno strumento per la misura, quindi non assumevano vino per arrivare all'ebbrezza forse iniziale, ma all'inconsapevolezza totale, all'incoscienza no. Grazie a Franco che ci ha portato un'esperienza dal territorio del Prosecco, e con questo concludiamo questa pagina su come gli altri ci vedono. Oggi invece il corrispondente abbiamo utilizzato il vino per capire come gli altri ci vedono. E andiamo invece a parlare di quello che affronteremo alle 9. Attenzione, perché parleremo di amore classista, proprio così. Parleremo degli incredibili dati Istat sul fatto che in realtà in Italia non solo ci sia una immobilità sociale denunciata da questioni, e numeri che si possono registrare arrivano dal mondo dell'occupazione e del lavoro, ma addirittura l'immobilità sociale è sancita anche dal modo in cui in Italia ancora oggi si formano le famiglie. Poi, al di là del fatto che ci sia il vincolo giuridico o meno del matrimonio, la convivenza duratura, diciamo, la convivenza con figli e il matrimonio mostra un tratto caratteristico comune ai paesi del Mediterraneo, cioè le persone tendono a scegliere dei partner con lo stesso livello culturale e sociale. Per esempio, solo lo 0,2% delle donne laureate si sono sposate nel 2013, questi sono i dati che risalgono a 2 anni fa, con uomini con un grado di istruzione elementare. Ma questo è solo un esempio, ve ne daremo tanti in termini di numeri e di statistiche. Intanto però vogliamo sapere, voi avete notato questo? Voi, osservando quello che dovrebbe essere il fenomeno della cecità inconsapevole, cioè dell'amore, delle coppie anche intorno a voi, avete notato questa selezione verso persone con un medesimo titolo di studio, con una provenienza culturale molto omogenea? E questo è dovuto a dei condizionamenti della società e della famiglia quando si compie quello che ancora oggi viene definito il grande passo, o veramente siamo un po' opportunisti quando scegliamo, o come dicono altri psicologi è genetica, in realtà è una empatia che pensiamo di registrare a livello conscio e di scelta, ma sono i geni che scelgono per noi. E matrimoni di questo tipo sono destinati a durare di più, visti i dati di divorzi? Tutti i temi che tratteremo dalle 9 in poi a spunti di vista, le vostre opinioni, le vostre osservazioni, perché proprio dall'incidenza delle famiglie e da come si formano le famiglie si ottiene quella che è la stratificazione e anche l'evoluzione sociale. Quello è un aspetto poco trattato, perché di solito si guarda a modelli occupazionali, appunto si cercano questi dati semplicemente nella mobilità di imprese, aziende e dipendenti. In realtà abbiamo scoperto che è dentro casa, dentro il focolare domestico, che avvengono i cambiamenti o le paralisi dal punto di vista sociale, che hanno un'incidenza maggiore. Andiamo in Grecia ora, dove ci aspetta Dimitri Deliolanes. Yasu, bentornato, ben ritrovato Dimitri, buongiorno. Calimera. Dimitri Deliolanes è il corrispondente ellenico della radio TV ERT. Il suo ultimo libro è stato La sfida di Atene. Attenzione, perché ci dovrai aiutare a capire diversi fronti oggi, Dimitri. Cioè, tu hai sempre osservato la Grecia da qui e hai raccontato l'Italia ai greci. Ora devi riuscire a spiegarci cosa accadrà ora che Tsipras ha capitolato. Beh, capitolato non direi, lui ha raggiunto un compromesso, un accordo brutto contro i suoi principi, ma è riuscito a mantenere la presenza della Grecia all'interno dell'Eurozona e anche un nuovo finanziamento consistente, in maniera da riuscire a superare cominciare a rivedere la fine, diciamo, della durissima crisi economica che colpisce la Grecia. Diciamo che io forse la tua domanda si riferisce al fatto che ha dovuto ricorrere a elezioni anticipate perché questo compromesso ha provocato una spaccatura all'interno del suo partito e anche del suo governo. No, ti spiego, ho utilizzato un termine, che un verbo che è stato scelto, almeno nella traduzione, poi non so, da Varoufakis in un'intervista che ha rilasciato a Le Monde, che è stata ieri tradotta da Repubblica, che è uno dei quotidiani a maggiore circolazione, e si parlava di capitolazione. Tsipras ha capitolato, ma l'accordo è insostenibile, spiegava Varoufakis. È un po' l'austerità imposta dall'Unione Europea, che voleva arrivare a questo risultato delle dimissioni di Tsipras, e ha colto nel segno. Per quello ho utilizzato il termine capitolato. Tu invece parleresti solo di dimissioni, diciamo. No, io parlo riferendosi all'accordo che si è fatto circa un mese fa, parlo di un compromesso doloroso. Parlando di dimissioni, io direi che la capitolazione è una sfida al suo elettorato e al suo partito, in maniera da ottenere una maggioranza da lui controllata e che lo possa sostenere nella sua opera di governo, cioè togliere di mezzo i dissidenti che già peraltro di per sé si erano distaccati e autonomizzati dal suo partito. Quando si andrà alle urne? La data che gira è quella del 20 settembre, ma c'è un'opera di, come vogliamo chiamarla, di ostruzionismo da parte di quelli che hanno ricevuto il mandato al Presidente della Repubblica a formare il nuovo governo, per cui stanno un po' rallentando le procedure. Quindi se non sarà il 20 settembre sarà probabilmente a fine di quel mese oppure inizio di ottobre. Che gradimento ha oggi Tsipras? Ah, un grande gradimento, questa è la cosa che non si rileva, non si capisce leggendo la stampa straniera o leggendo le interviste dei critici di Tsipras, come lo è Varoufakis. Lui è un leader al centro dello scenario politico greco, non ha rivali sostanzialmente, perché sia a destra che a centro dominano leader, diciamo così, di scarso livello politico. L'opinione pubblica greca ovviamente non è soddisfatta di questo compromesso, ma gli riconosce le buone intenzioni e l'aver negoziato duramente per 5 mesi, cosa che nessun altro capo di governo europeo ha fatto, quindi è disposta a dargli ancora un'altra possibilità in modo da poter governare, per vedere se riesce poi alla fine a portare il paese fuori dagli scogli di questa terribile politica economica che viene applicata nell'Eurozona. Da un sondaggio di cui ho i dati, condotto dall'Istituto Metron Analysis, il mese scorso l'indice di gradimento per Tsipras era del 61%. Se rimani con noi, vorremmo prendere in esame anche l'impatto che ha questa crisi della Macedonia e dei migranti sulle possibili elezioni greche, ma lo faremo dopo il notiziario. La linea ora va al GR. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E ancora buongiorno da Irene Zerbini. Stiamo cercando di comprendere cosa succederà. Certo, ci vorrebbe la sfera di cristallo, ma cercare di capire qual è la situazione dopo l'esplosione di Syriza in Grecia. C'è stato l'addio al partito del premier di 25 deputati capeggiati dall'ex ministro Lafazanis. I sondaggi confermano l'alto gradimento per Tsipras, abbiamo visto i numeri, abbiamo visto come anche Syriza si attesti e viaggi su percentuali decisamente superiori al 34%. Lui, Tsipras, punta alla maggioranza assoluta, data delle elezioni forse il 20 settembre. Dimitri Degliolanes, questo quanto ci hai raccontato finora. Ora vorremmo spostarci su un altro fronte decisamente delicato, perché fatte le debite proporzioni, come potremmo paragonare l'arrivo di migranti in Grecia all'arrivo di migranti sulle coste italiane? 158.000, queste sono le ultime cifre da gennaio a oggi, rispetto ai 104.000 sul territorio italiano, sono cifre che fanno impressione. Sì, fanno impressione, e c'è poco da commentare veramente. Penso che sono oramai anni che in Grecia, in Italia, in tutti i paesi del Mediterraneo si continua a guardare verso l'Unione Europea per cercare di avere una politica unitaria e affrontare questa emergenza assolutamente incredibile, fuori da qualsiasi cosa ordinaria, e invece vediamo che i paesi mediterranei sono lasciati soli, l'Unione Europea non esiste politicamente in queste zone di conflitto e non è in grado neanche di programmare minimamente, di pianificare un minimo di assistenza a queste persone, questi profughi di guerra. Veramente è una situazione, cioè il problema non è Italia, Grecia, Cipro, Malta, ma è un problema veramente dell'incapacità dell'Europa nell'affrontare questa emergenza, che si aggiunge a quello di cui parlavamo prima, cioè la sua incapacità a affrontare la crisi economica. Veramente una situazione molto molto brutta per chi come me è un europeista convinto. Veramente sto vedendo segni di grandissima crisi politica, ma anche proprio ideale, di questa nostra Unione Europea. Dal punto di vista della crisi economica, visto che il potere d'acquisto delle famiglie in Grecia si è, come dire, non assottigliato, perché sarebbe un eufemismo, ma è stato eroso in maniera incisiva in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, da quando l'austerità è stata indicata come l'unica strada da seguire. Ora ci interesserebbe capire, c'è solidarietà verso questi migranti, verso questi profughi che arrivano in Grecia? Ci sarà sicuramente Alba Dorata e i fronti estremisti che soffiano sul fuoco, chissà, dell'irritazione, dell'insoddisfazione. Come si pongono i greci rispetto a questo? Sì, sicuramente ci sono gli estremisti, ci sono i xenofobi, i razzisti, che parlano di cospirazione, che parlano di invasione, che parlano di situazioni di alterazione addirittura, siccome Alba Dorata è un movimento hitleriano, una nazionalsocialista, quindi crede alla razza, a queste cose qua, parla di tentativo di alterare la purezza razziale dei greci e stupidaggini di questo genere. Però oltre a queste speculazioni indecorose c'è il problema vero che c'è, per quanto uno possa essere solidale, e gli abitanti di queste isole dell'Egeo, di Kos, di Lesbo, di Leros, sono tuttora estremamente ospitali e solidali verso questa povera gente che sbarca nelle loro isole, beh, a un certo punto vedere migliaia di gente accampata nel parco dell'isola, in una piazza principale, senza un minimo di servizi igienici, mangiare, bere dell'acqua, cioè un posto dove dormire, eccetera, sicuramente allarma e pone dei problemi. Si chiede allo Stato, all'Unione Europea, a chiunque, alle Nazioni Unite, di prendersi carico di questa situazione. È un problema, io spesso, anzi non parlo mai dell'immigrazione, perché è un problema senza soluzione. Quelle soluzioni che pone l'estrema destra, alziamo mura, spariamo le cannonate contro le barche, respingiamole tutti, sono non soluzioni assolutamente impraticabili, capaci solo di mobilitare la piazza, diciamo così, più retriva, più conservatrice. La verità è che non c'è un problema, non c'è una soluzione al problema, nessuno ha una soluzione a questo problema. Quindi è un problema che va gestito sapendo che non è comunque risolvibile. E sul fronte della gestione, per tutti, ma per i greci in particolare, reduci, come sappiamo, da accordi che hanno messo in ginocchio praticamente l'economia interna, questa è un po' la conferma che l'Unione Europea dimostra un'estrema fragilità quando si tratta poi di gestire dei fenomeni complessi. È un'altra falla che si apre sul fronte dell'Unione Europea e che mette in crisi, come dici tu, europeisti di prima data, tra i quali tu ti ascrivi, e naturalmente sono tanti ora a porsi tante domande. Senti, Dimitri Deliolanes, cosa prevedi per... se è chiaro, non c'è la sfera di cristallo, ma per le elezioni del 20 settembre? Che se saranno il 20 settembre? Sì, io prevedo che ci sarà una... un'affermazione importante da parte di Tsipras. Penso che se non raggiunge la maggioranza assoluta in Parlamento, poco era poco ci mancherà. In sostanza sarà sicuramente confermato il risultato di gennaio di quest'anno, forse addirittura con qualche aumento. Quindi se tutto va bene ci sarà un periodo, diciamo così, di stabilità politica, in modo che anche i nostri conti con l'Unione Europea, che come ho detto non sono banali e non sono facili, siano affrontati in maniera, diciamo così, seria, composta, con l'aiuto anche dei paesi vicini e che hanno problemi simili come l'Italia. Grazie mille Dimitri, grazie per quelle tue analisi, le tue osservazioni, riflessioni. Lo ricordiamo, Dimitri Deliolanes vive in Italia perché è il corrispondente italiano della radio TV ERT e il suo ultimo libro è stato La sfida di Atene. Grazie, buona giornata naturalmente. Grazie a voi. E lo risentirete probabilmente anche su queste frequenze all'indomani delle elezioni, quando ci si avvicinerà. E spunti di vista è arrivata l'ultima settimana di conseguenza. Non sarà nel corso di questa trasmissione. 9:15, noi ora prendiamo in esame un altro aspetto della società che cambia, anzi che non cambia come ci aspetteremmo forse, e ci chiediamo, ma anche il matrimonio e di conseguenza anche l'amore è classista? Era stato infatti segnalato da diverse ricerche una sorta di ascensore sociale bloccato, chiamiamolo così, con la scuola che non aiuta come una volta a scalare le posizioni di classe. Sì, è rimasto questo termine anche tra i sociologi, so che irrita molti, so che è antipatico, però vengono definite classi o coorti. Tra poco ne parleremo con un sociologo che potrà aiutarci a entrare più nel vivo di questo paradosso tutto italiano, cioè la riduzione dei flussi di mobilità ascendente. Così ha definito la sua ricerca Antonio Schizzerotto, l'ha presentata al Festival dell'Economia di Trento qualche tempo fa e ha suscitato anche delle riflessioni profonde. Noi intanto lo salutiamo, lo ringraziamo, benvenuto in trasmissione professore. Buongiorno. E stiamo chiedendo anche agli ascoltatori se loro notano intorno a sé, dalla loro osservazione, non solo della propria situazione ovviamente, che è così quando si tratta di scegliere un partner, marito, moglie, se poi si arriva a ratificare, come dire, l'unione ha poca importanza, cioè quando si forma famiglia, diciamo così, alla fine si va a tingere sempre nello stesso bacino sociale, detto in maniera da rendere accessibile la sua ricerca. Cerchiamo di invece entrare nel vivo proprio di quello che ha constatato lei, su che campione vi siete mossi e cosa avete preso in considerazione, professor Schizzerotto. Sì, diciamo così, l'analisi di quella che tecnicamente si chiama omo-eterogamia, cioè voglio dire le appartenenze sociali delle persone che formano coppie stabili e famiglie, come dice lei. Noi abbiamo utilizzato due fonti principali, una è un'indagine longitudinale che stiamo conducendo da tempo ed è un campione di circa 11.000 persone. L'altra è l'indagine della Banca d'Italia sui bilanci delle famiglie italiane e di recente, anche se io non l'avevo a disposizione quando ho preparato quell'intervento per il Festival dell'Economia che lei citava, ultimamente credo che siano usciti anche dei dati di statistica ufficiale, cioè l'Istat nella sua indagine multiscopo ha affrontato anch'essa questo problema e i risultati mi sembrano ampiamente convergenti verso quelli che appunto io avevo esposto in quell'occasione. E che adesso proviamo a sintetizzare, perché sì, l'Istat, riferito ai matrimoni dell'anno 2013, ha dedotto che la maggior parte delle coppie italiane si forma soprattutto in base ad affinità culturali e socio-economiche. Insomma, tradotto, abbiamo detto, le persone tendono a scegliere il partner con lo stesso livello culturale e sociale. E qual è il risultato della sua ricerca? Su che, perché classi è una parola brutta, capisce? No, soprattutto in questi ambiti, ci dicono gli ascoltatori. Classi è una parola brutta perché per chi pensa che solo i marxisti o Marx l'abbia usata. In realtà esiste nella letteratura specialistica una ampia messe di studiosi, sicuramente non sospettabili di convergenze col marxismo, che utilizzano tranquillamente questo termine. È un problema un po' più italiano, diciamo così, che non europeo. Perfino negli Stati Uniti usano il termine classe, perlomeno sociologi ed economisti. Comunque, ciò detto, per tornare alla questione in senso proprio, direi che quello che traspare è non solo che le persone tendono a scegliersi per formare coppie stabili e famiglie sulla base dei livelli di istruzione e delle posizioni sociali, se non vogliamo usare il termine classe, a loro proprie, ma quello che è in un certo senso stupefacente è che conta, oltre alla posizione sociale, socio-economica e culturale dei due componenti, la coppia conta moltissimo anche le loro origini sociali. Quindi diciamo che gli uomini e le donne si scelgono per formare coppie tenendo conto non solo di chi sono loro, ma anche da dove provengono. Ed è da questo punto di vista che io sottolineavo come i processi di formazione delle famiglie sono di ostacolo alla mobilità sociale. Perché dico questo? Beh, dico questo perché due sono sostanzialmente i canali di mobilità che esistono nelle società come la nostra, diciamo società ad economia di mercato e con regimi politici di stampo democratico. E i due canali sono l'occupazione, il mercato del lavoro, diciamo così, e l'altro è il matrimonio. Al matrimonio si pensa meno, all'occupazione sì. Si pensa più di frequente quando si parla di meccanismi di mobilità sociale, vengono in mente il lavoro e lavoro, professioni e la scuola anche, il titolo di studio che ti permette. Il titolo di studio però non è propriamente un canale ma è una risorsa mobilizzabile. È uno strumento, lei dice. È uno strumento, tanto è vero che stiamo dicendo adesso che le coppie si formano anche per prossimità dei livelli di istruzione, quindi io posso utilizzare il titolo di studio tanto sul mercato del lavoro quanto sul mercato matrimoniale, quindi in questo senso tenderei a fare una distinzione. Mercato del lavoro e mercato matrimoniale sono i canali attraverso percorribili per muoversi nella stratificazione sociale. L'istruzione è una delle risorse. Anche la bellezza, come alcuni economisti sottolineano, può essere un'importante risorsa di mobilità e non solo sul mercato matrimoniale. Grazie, ma prevale nel sentimento comune la sensazione che l'amore sia romantico, quindi che sia di conseguenza nel processo di formazione delle coppie un elemento il fondamentale e che quindi non abbia delle caratteristiche che poi siano misurabili in termini sociologici di questo tipo, e si scontra poi questa sensazione diffusa con la realtà e raccolta dall'Istat e raccolta dalle sue ricerche. Sentiamo cosa dicono anche gli ascoltatori. Un matrimonio deve durare una vita, quindi improntato al realismo anche questo messaggio che arriva da Luca, e quindi non mi sembra sorprendente che la gente voglia sposare qualcuno con cui rapportarsi da pari a pari per 50 anni o più. È bello perché c'è anche la durata nel suo orizzonte ideale del matrimonio. Meno male che scegliamo il simile, ci scrive un altro ascoltatore, la comunanza di interessi, occasione di incontro, gli stessi percorsi di vita, il fatto che si scelga il partner a scuola o al lavoro ci rasserena, ci dà una continuità. Le donne non scelgono uomini che guadagnano di meno, è vero anche questo, professor Schizzerotto? Boh, diciamo che dati differenziali medi che ancora esistono nei trattamenti salariali tra uomini e donne è vero. Diciamo che oggi è molto meno vero di quanto non fosse anche qualche solo decennio fa. E dunque, voglio dire, il matrimonio non è un canale di mobilità solo per le donne, può diventare un canale di mobilità anche per gli uomini, insomma. A parte il fatto, appena sottolineato, che, ripeto, la formazione delle coppie, più che aprire chance di mobilità, tende a irrigidire la struttura della stratificazione sociale. Però questo non è contraddittorio con l'idea che esista l'amore romantico. Perché? Ce lo dirà tra poco. Sentiamo anche i nostri ascoltatori al telefono all'800 24 00 24. Quindi questi dati che vi stiamo dando non contraddicono la poesia, chiamiamola così, dell'amore romantico. Bruno, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Da dove chiama? Da Calanzaro. Dica. Allora, questi dati non lo contraddicono, dato dal fatto che non prevedono, non verificano da dove provengono le famiglie. È naturale che una persona che ha un grado culturale, che non significa la laurea, ma significa l'intelligenza della persona, si accoppi con una persona che abbia quantomeno un grado di intelligenza simile. Ma quello è più difficilmente misurabile, è più facile misurare però i titoli di studio, guardi, che l'intelligenza. Sì, però l'intelligenza delle persone è spesso lo 0,02, lo 0,2, lo 2%, quindi è quello per cui le persone non laureate o con scolarità elementare si accoppiano con persone laureate. È vero che non si misura l'intelligenza, però si sente nel parlare con l'altro, quindi quando tu ti rapporti con l'altro noti anche la capacità e l'intelligenza dell'altro. Grazie Bruno, grazie, perché lei ha portato la discussione su un altro campo ancora. Professor Schizzerotto, ha sostenuto il nostro ascoltatore, le persone con licenza elementare si accoppiano anche con persone laureate, le risulta e in che misura? Semplicemente non è vero, voglio dire, gli ultimi dati che noi abbiamo a disposizione non c'è nessuno, è vero che sono dati campionari, però ripeto, di campioni molto ampi, e l'Istat e le statistiche matrimoniali dell'Istat sono addirittura censuarie. Comunque, diciamo, dai dati campionari risulta che zero è la probabilità che un laureato sposi una persona con licenza elementare, diciamo meglio con scolarità obbligatoria, perché ormai con la licenza elementare non c'è veramente nessuno, neanche in Italia. Ci sono poche persone che hanno solo la licenza quindi elementare. Diciamo però la probabilità statistica che si formi una coppia del zero è una coppia del genere, è convergente verso zero. Il banco di prova di questa affermazione, poi spiegheremo anche perché non è in contraddizione con l'amore romantico, sono i tassi di separazione e di divorzio. Dunque il presidente dei matrimonialisti italiani, che oggi è nostro ospite, può confermarci o meno se ha notato dal suo osservatorio molto particolare questa tendenza. Gianettore Gassani, buongiorno, benvenuto, ben ritrovato. Buongiorno a voi. che quando si parla di diritto familiare lei spesso ha delle annotazioni in controtendenza. Noi sappiamo che le separazioni sono in continua crescita, sono state 88.797 per gli ultimi dati che abbiamo disponibili nel corso di un anno, i divorzi 53.806. Quali sono i matrimoni che hanno tenuto di più? Ma innanzitutto lo studio del professore Schizzerotto è assolutamente coerente anche con quello che noi notiamo nei tribunali quando noi facciamo le schede dei nostri clienti prima di procedere poi a una separazione o un divorzio. Fondamentalmente è così. Il nostro è un paese conservatore, prima i matrimoni venivano combinati dai genitori, oggi vengono combinati un po' dalle convenzioni, dalle comodità, dal fatto che fondamentalmente conviene sposarsi più o meno nello stesso ambiente. E bisogna fare poi una distinzione tra matrimoni che si formano e matrimoni che continuano ad essere in piedi, perché ci sono anche tantissimi matrimoni tra persone di diversa estrazione sociale e sono purtroppo i matrimoni che finiscono, oppure sono matrimoni che vanno avanti semplicemente per convenzioni sociali, perché evidentemente conviene così, diventa difficile anche dal punto di vista economico ricomporre nuove famiglie. Però è vero, ormai è un paese il nostro che si sceglie sulla base di parametri ben precisi. Ma lei dice è un paese il nostro o è una tendenza che si verifica anche all'estero? Questo è un paradosso tutto italiano? Sì, diciamo che fondamentalmente tutti i paesi del Mediterraneo, tutti quelli che si affacciano sul Mar Mediterraneo fondamentalmente sono simili da questo punto di vista, insomma il sud della Francia, la Spagna, la Grecia, ovviamente l'Italia, sono paesi simili da questo punto di vista. Lo notiamo anche poi quando si tratta di intrecciare studi tra vari studiosi del diritto di famiglia in Europa. Diciamo anche che quando la coppia è formata in maniera asimmetrica, spesso poi l'infedeltà viene con persone dello stesso ambiente, viene con colleghi. Nel 60% dei casi, infatti, l'infedeltà si consuma sul luogo di lavoro o si consuma con persone che appartengono al proprio ambiente, proprio perché probabilmente alla lunga vengono meno quelle affinità culturali, intellettuali. Si sta insieme, molte volte si riscaldano le minestre. È una cosa terribile, ci si lascia, ci si prende. Diciamo che diventa difficile la voglia di rischiare. Oggi non esiste più Cenerentola, oggi non esiste più il principe azzurro, per fortuna. Esistono appunto dei matrimoni che si combinano sulla base anche di questioni logistiche. È una cosa molto triste, perché credo che invece la risorsa del matrimonio è proprio quella di unire culture diverse, persone diverse, di realtà diverse. Basti pensare una cosa: il 78% dei matrimoni misti finisce in tribunale, cioè quella che doveva essere una risorsa di integrazione interculturale è fallita perché probabilmente l'approccio delle persone rispetto al matrimonio misto è un approccio sbagliato, ognuno cerca di imporre la propria cultura, e ci rendiamo conto noi avvocati che quando andiamo a leggere le statistiche i matrimoni anche tra persone di regioni diverse sono molto più complicati in nome di quel orrendo detto moglie e buoi dei paesi tuoi, che è orrendo, ma che comunque fondamentalmente al di là delle ipocrisie italiche rende l'idea. Per cui molta gente quando non è dello stesso ambiente magari riesce ad andare avanti perché non può ricostruire una nuova vita, non può prendersi una rivincita. Queste sono un po' le considerazioni che noi avvocati facciamo. Beh, sono considerazioni che cozzano con quella che è la percezione collettiva, nel senso che prima di leggere questi dati Istat forse, e la ricerca emersa dal convegno di economia di Trento e dalle carte del professor Schizzerotto, non si pensava molto a questo, in quanto oggi le occasioni di incontro per una donna, per esempio, che è mediamente più istruita del genitore e dei suoi nonni, le occasioni di viaggio un po' per tutti, le occasioni di mischiare le carte dovrebbero almeno sulla carta essere maggiori. E poi quando invece si vanno a controllare i dati, quelli veri, i numeri, quelli che raccontano la crescita della famiglia, si scopre che la famiglia è, secondo le teorie funzionaliste, una sede di scambio monetario, la sede del conflitto, la sede del potere, da dove poi partiranno le norme, i valori che si trasmettono ai figli. Ebbene, in genere, i componenti principali della famiglia, i due che la iniziano, sono molto omogenei, per cui la possibilità anche di aprire dal punto di vista delle norme, dei valori, della cultura prevalente, a questo punto è ridotta. Ma sono scelte che facciamo in maniera consapevole o inconsapevole? Ne parliamo tra pochissimo con una psicologa che a questo tema, grazie a Tili, ha dedicato decisamente molta parte del suo tempo e ha scritto Cosa si nasconde dietro la scelta del partner. Le sue risposte sono piuttosto sorprendenti. Diamo la linea alla regia e torniamo con la professoressa Tili e con le vostre telefonate all'800 24 00 24. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Il boom di divorzi sembra avvenga proprio d'estate, perché avendo trascorso insieme un tempo maggiore c'è la possibilità non solo di affiatarsi di più, ma anche evidentemente per la coppia di scoppiare letteralmente. Intanto sentiamo le vostre considerazioni, impressioni, anche testimonianze, esperienze in prima persona. Cominciamo con Federico, tutti gli altri possono chiamare l'800 24 00 24. Federico, buongiorno, lei da dove chiama? Pronto? Federico? Ha avuto un attacco di timidezza in questo momento? Oggi è la giornata delle telefonate che non vanno a buon fine. Federico, pronto? Mi sente? Sì, pensavo si fosse pentito, non volesse più parlare di un aspetto tanto intimo. Volevo soltanto capire in questa analisi statistica come hanno fatto a discriminare il fatto che la scelta avvenga in base alle origini familiari, al livello culturale della famiglia. Perché è un dato di fatto che il livello culturale di una persona dipende dal livello culturale dei genitori della famiglia. Purtroppo la Costituzione... A discriminare questo, scusa. No, niente, cioè, lo domando io perché no, non è una discriminazione, lei guardi, cioè, è un dato di fatto questo, anche questo. Ma ci possono essere figli laureati da famiglie con licenza media. Purtroppo questo è il punto, che questo diventa sempre molto più raro, perché se lei guarda nei fatti, negli ultimi decenni lo Stato, invece di promuovere l'educazione dei capaci e dei meritevoli, ha preferito regalare diplomi, per cui il dato di fatto è che se lei va a analizzare le origini familiari, non so, degli studenti universitari di medicina, lei scopre che pochissimi sono figli di operai. La possibilità che oggi un figlio di operaio diventi professore universitario è nei numeri, ci sono statistiche anche per questo, è infinitamente bassa. Il problema grosso della mancanza di ascensore sociale è nell'educazione, nel sistema scolastico, nel sistema universitario. È un paradosso che io che sono un beneficiante, paghi fra virgolette soltanto 4.500 euro all'anno di tasse universitarie per un corso che ne costa probabilmente allo Stato 20.000, questo corso di mia figlia è finanziato anche dalle tasse pagate dagli operai, i quali però non ce la fanno a mandare i loro figli a medicina. Mi spiego? Si è spiegato benissimo, Federico, io la provocavo un po' e ha colto veramente nel segno. Noi siamo partiti da questo aspetto forse più, come dire, inesplorato, per parlare proprio di questo, della mobilità sociale che non si esplica per mille ragioni in Italia, e una di queste risiede anche nelle famiglie e nei meccanismi di formazione delle famiglie, ma soprattutto si esplica con la possibilità o meno di accedere a un'istruzione superiore a quella della famiglia d'origine, e poi, come ci ha spiegato Schizzerotto, questo è solo uno strumento, a meccanismi che immobilizzano anche l'ascesa dal punto di vista verticale, cioè verso l'alto, negli ambienti di lavoro. Insomma, siamo una società paralizzata a diversi livelli. Professoressa Grazia Tili, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno, sono qui. E lei insegna psicologia sociale all'Università La Sapienza di Roma, ha scritto L'amore imperfetto e cosa si nasconde dietro la scelta del partner, proprio perché ha capito che le radici biologiche, psicologiche di questo tipo di scelte poi hanno un'incidenza sulla società davvero sorprendente. Ma ci chiedevamo, è una scelta consapevole quella del partner che appartiene alla stessa coorte dal punto di vista dell'istruzione, della provenienza sociale, o inconsapevole? Beh, noi siamo regolati da dei criteri di scelta che sono l'esito della selezione naturale, di cui non siamo assolutamente consapevoli, perché se noi pensiamo che noi come specie animale, perché noi siamo degli animali, abbiamo come scopo ultimo cercare di propagare le caratteristiche in quanti più individui possibili, le caratteristiche possono essere genetiche, possono essere anche culturali, è chiaro che utilizziamo come criterio di scelta quello che si basa su quello che io chiamo l'effetto somiglianza, cioè se noi cerchiamo come partner, ma non a livello consapevole, qualcuno che addirittura ci somigli fisicamente, oppure che abbia i nostri stessi valori, il nostro stesso, i nostri stessi criteri culturali, la nostra stessa religione, aumentano le probabilità di poter lasciare tutto questo nella progenie, nei figli. E questi criteri di scelta scattano anche quando noi non abbiamo intenzione di avere figli, perché è un meccanismo a base innata che ci porta a individuare come partner con il quale stabilire una relazione duratura una persona che abbia queste caratteristiche qui. Quindi, è una scelta genica, cioè di tipo evoluzionista, anche quando non abbiamo intenzione di avere figli. Esatto, è l'esito della selezione naturale, quindi questa grande ricerca conferma quelle che sono delle tendenze che sono a base innata. E oltre all'effetto somiglianza, quello che ci fa scegliere il partner è l'effetto familiarità, cioè noi scegliamo come partner un qualcuno che somigli in qualche maniera alle persone con le quali siamo stati allevati da piccoli, perché non solo aumenta, anche siccome le persone con le quali siamo allevati da piccoli per lo più sono consanguinei, cuginetti, amici del proprio gruppo, ai primordi della specie i gruppi erano caratterizzati dalla consanguineità, quindi noi scegliamo qualcuno che somigli alle persone con le quali siamo allevati, ma l'effetto familiarità fa sì che noi non abbiamo paura dell'estraneo, cioè noi abbiamo anche questa una tendenza basinata ad avere paura degli estranei. Beh, lo vediamo verso i fenomeni che abbiamo e caratterizzano le nostre società in questi giorni, la paura dell'estraneo. E per quello è molto legato questo tema ai meccanismi sociali, perché a noi, soprattutto occidentali istruiti, piace dipingerci come egalitari, assolutamente aperti, accoglienti, e poi veniamo a scoprire, perché i dati ci restituiscono la nostra realtà, i numeri più di tanti discorsi, che ci piacciono quelli che ci assomigliano. Gli altri sono un po' sempre delle sagome di cartone che si stagliano sullo sfondo e che conosciamo poco e verso i quali non ci spingiamo nemmeno molto. Questo avviene a livello sociale, ma avviene anche in famiglia. Questo fenomeno detto dell'omogamia educativa, occupazionale, prima l'abbiamo identificato in questi due ambiti, poi in realtà c'è anche quando in gioco c'è quel sentimento che sembrerebbe il più spontaneo, il più privo di calcoli per definizione, proprio quello dell'amore. Sa cosa sta succedendo tramite i nostri messaggi SMS? Ci stanno scrivendo gli ascoltatori, professoressa, e c'è qualcuno che proprio rifiuta questo tipo di lettura, perché dice che il livello culturale, il titolo di studio, non è vero che sia importante per l'approccio alla vita. E si torna al discorso dell'intelligenza e di come una persona si comporta. Questa è Grazia che ci scrive da Roma. E poi c'è chi dice che sono soprattutto i ricchi a essere condizionati in questo, nel senso che non vogliono abbassare la tradizione sociale di famiglia, i poveracci questo problema non ce l'hanno. Lei cosa risponde? No, io direi proprio che non è così, cioè si sceglie nell'ambito del proprio gruppo, nell'ambito dei propri interessi. Una persona che ne so, che ama la musica rock, sceglie e frequenta persone che hanno gli stessi gusti ed è in quell'ambito lì che sceglie il partner. Quindi non è una scelta condizionata dalla stratificazione sociale, ma è una scelta che rivela delle caratteristiche, delle tendenze che sono l'esito della selezione naturale, che si ritrovano sempre. E questa grandissima ricerca mi sembra che ha provato che non è vero che l'intelligenza, indipendentemente dal livello culturale, influenza la scelta, cioè si sceglie, ma questo non vuol dire affatto che l'amore si è interessato, perché questi criteri esulano assolutamente dalla nostra consapevolezza, quindi non è che noi facciamo un calcolo e decidiamo di quale persona innamorarci. Ci innamoriamo di persone che hanno certe caratteristiche, ci innamoriamo delle persone che ci somigliano, anche fisicamente, ci innamoriamo delle persone, per esempio, che riteniamo belle. La bellezza è un indicatore di salute, per esempio, e quindi inconsapevolmente si sceglie e si è attratti da una persona che ha certi lineamenti, certe proporzioni nel fisico che rivelano che non ci sono state anomalie nello sviluppo. Quindi sono tutti meccanismi che sono legati al fatto che noi non siamo altro che dei primati e siamo primati umani, e quindi scattano tutte le tendenze che poi si ritrovano anche negli altri specie animali. Noi abbiamo la cultura e quindi la morale, i valori religiosi, e quindi scegliamo sulla base di affinità che sono di tipo culturale, che non sono soltanto di tipo fisico. E se hai la consapevolezza di appartenere, come dire, ai primati, agli animali, e avere questo tipo di spinte, ti darai come società molto più da fare per educare all'accettazione. Certamente, tutti i programmi educativi dovrebbero partire dalla consapevolezza di come noi ci siamo evoluti. Lei prima parlavamo della paura dell'estraneo. Ai primordi della specie avere paura di chi non era simile a noi aveva un senso, perché significava che gli estranei avrebbero fatto di tutto per uccidere, perché dovevano propagare le loro caratteristiche genetiche a scapito delle nostre, e noi portiamo questa tendenza, e quindi dobbiamo renderci conto che, per esempio, la nostra empatia scatta in maniera immediata la nostra solidarietà nei riguardi delle persone che fanno parte dei nostri gruppi in qualche maniera. E la società, la scuola e l'istruzione dovrebbero, partendo da questa consapevolezza, proprio sempre di più spingere a politiche e a insegnamenti che portino all'apertura e all'accettazione. Torneremo tra pochissimo su questo tema. C'è Alessandro che ci chiama da Lucca, c'è Doriana, ci sono gli ascoltatori che all'800240024 vogliono portare la propria esperienza. Prima però è lunedì 24 agosto, la situazione del traffico è decisamente rilevante in una mattinata come questa, dove ancora si prolungano rientri, partenze per l'ultima settimana d'agosto, stanno per terminare le vacanze, sta per terminare anche questa trasmissione, e infatti abbiamo imboccato proprio gli ultimi 5 giorni. Stiamo anche per dar voce ai vostri sms al 349 238 6666. Il traffico ora. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E ancora buongiorno da Irene Zerbini, e lo sapevamo nella redazione di Spunti di Vista che questi dati sarebbero stati particolarmente impopolari. Lo confermano i vostri sms, c'è qualcuno che dice: ma insomma, a prescindere dal censo, qual è la percentuale di tradimento su base di conoscenze online invece? E in quel caso però, come ha detto l'avvocato matrimonialista, tra poco gli ridaremo voce, si parla di tradimento, non di instaurazione di una famiglia. Quindi sono questioni leggermente diverse. E poi c'è chi dice non si può prendere in esame un aspetto di questo tipo con dati e numeri, perché non stiamo parlando di borsa e sono argomentazioni orribili, e gli uomini si rifiutano, non accettano che possa essere così ridotto una spinta evoluzionistica la scelta che per alcuni ha determinato la scelta di vita più importante. C'è anche un sms bellissimo, arriva da Ivan, dice: io sono laureato da tempo, quando ho conosciuto quella che ora è mia moglie lei aveva ufficialmente la terza media, siamo assieme da 13 anni, io sono alla seconda laurea, mia moglie ha recuperato tutto il liceo e si sta laureando in psicologia. In pratica siamo partiti spinti dal destino da quella che per il professore era una probabilità zero, cioè il laureato con la persona che ha un titolo di studio decisamente inferiore. Poi la vicinanza ci ha portato alla ricerca di un equilibrio. Professor Schizzerotto, è rivolto a lei questo sms. Non vedo in che senso possa smentirmi. Io la probabilità è convergente verso zero. E l'esperienza di questo ascoltatore è, come dire, la migliore dimostrazione di quello che io dico. La probabilità è bassissima e quando comunque si verifica, è ovvio che probabilità zero, come dire, è un eufemismo, insomma, io non è che ho i dati censuari sotto mano, voglio dire una probabilità bassissima, ma quando si verifica loro hanno cercato di porre rimedio a un qualche cosa che veniva sentito come non adeguato, altrimenti perché la compagna, moglie, sposa di questo suo ascoltatore avrebbe dovuto sentire la necessità di fare liceo e di laurearsi? Beh, forse non per la vicinanza del marito laureato, ma per una scelta individuale, no? Beh, insomma, diciamo che la vicinanza del marito laureato mi sembra che sia difficile negare che conti, però ripeto, un caso su migliaia è pressoché uguale a zero. Cioè, lei parla di media, naturalmente, non di ogni singolo caso. Vabbè, voglio dire, è evidente, ci sarà qualche, può darsi che ci sia qualche caso eccezionale di cose di questo genere, ma se parliamo di irregolarità e di tendenze sociali, beh, voglio dire, le cose vanno nel senso che dico io. Dopodiché gli altri problemi sollevati dai suoi ascoltatori, io insisto, non ho mai detto che non esista amore romantico e non ho mai detto che non si tratti di scelte importanti, ho semplicemente sostenuto che l'amore romantico si manifesta in modi socialmente strutturati, entro confini, e quindi le due cose possono convivere tranquillamente. È certo che una volta i matrimoni erano decisi da famiglie e da reti di vicinato, oggi sono decisi molto, diciamo pressoché nella totalità, da scelte individuali, ma queste scelte individuali non sono scelte che avvengono nel vuoto e che avvengono casualmente. E che avvengono con dei condizionamenti. Tra l'altro la statistica, nonostante qualcuno ci segnali ha troppe variabili correlate, e la metodologia di indagine del sociale, c'è un ascoltatore che polemizza sul fatto che si possano raccogliere dati in questo settore, si possono raccogliere dal punto di vista scientifico perché esistono delle vere e proprie metodologie, delle ricerche applicate alle scienze sociali, non è che semplicemente si va a interrogare chi ha partecipato a una festa di compleanno, questo sia ben chiaro, ma qui siamo alla VC. Alessandro Da Luca, buongiorno, benvenuto. Pronto? Pronto? Doriana, pronto? Buongiorno Doriana, dica. Buongiorno a tutti. Brevissimamente, io, proprio perché si parla di tendenze sociali, volevo così, mi allineo completamente alla, come dire, all'opinione del professore, volevo aggiungere questa cosa. Esistono, scusi, come dei... se l'ho preciso, perché non piace a nessuno di noi aver verificato quello che si è verificato, non è un'opinione, è proprio una ricerca sul campo. Una ricerca, sì. Un riscontro, io ovviamente non ho riscontri oggettivi legati a delle, però è, come dire, ho osservato questa cosa anche in prima per un'esperienza vissuta in prima persona, e mi sono accorta che è come se ci fossero proprio dei retaggi culturali ed educativi che ci impediscono proprio di accedere ad ambiti diversi da quelli di origine. Per dirla più semplicemente, io sono una persona laureata in giurisprudenza, mi sono abilitata alla professione dell'avvocatura e purtroppo quando, non soffro di complessi di inferiorità assolutamente, perché sono una persona che, diciamo, mi sono sempre mossa in maniera, come dire, fluida in ogni ambito in cui io, sì, come dire, ecco, però la questione è che esistono quasi, come dire, degli scarti tra ambiti sia professionali che sociali che ci proprio che creano attrito nell'accesso. E quindi, e lei l'ha notato nella sua esperienza esclusivamente o anche osservando? Notato sulla mia, anche sulla mia pelle, nel senso che io non svolgo la professione di avvocato, sono un funzionario pubblico, perché ho avuto modo di accedere a questa attività attraverso un concorso pubblico. La professione era molto limitante per me, perché comunque pagavo lo scotto di, come dire, di provenire da una famiglia che non mi avvantaggiava, una famiglia molto semplice, mio padre un ragioniere, mia mamma una casalinga, che non mi hanno, come dire, consentito di accedere in maniera, diciamo, più immediata a certe cose. Ma diciamo, per così anche. Quindi per la famiglia d'origine, secondo lei, rimane anche dopo l'acquisizione del titolo di studio un elemento importante per l'accesso, l'accesso a certe classi, bruttissimo termine, ma che abbiamo verificato ancora esistono in Italia, classi sociali. Doriana, grazie per aver condiviso con noi questa sua esperienza. E avvocato Gassani, quando si parla di donna che è emancipata, donna che accede a gradi di istruzione superiori, come ci segnalano anche tantissimi messaggi ai nostri ascoltatori, e per questo dicono le donne oggi scelgono, a volte invece, secondo ricerche sul campo, i partner che hanno una doppia occupazione extradomestica a volte si espongono a dei conflitti da sovraccarico. Perché con la necessità di gestire anche gli impegni dei figli, i coniugi arrivano a un conflitto di identità. Anche questo è un elemento che voi avete verificato nelle vostre analisi su divorzi e separazioni? Allora, premetto che queste dinamiche riguardano anche le coppie more uxorio, cioè le coppie di fatto. Certo, l'abbiamo precisato. Anche perché si sono ormai milioni di coppie di fatto. Poi c'è anche un altro discorso, c'è tutto un esercito di separati in casa, cioè di persone che fanno finta di stare insieme, o stanno insieme per convenzione, perché chiaramente, come dicevo prima, conviene stare insieme per tantissime ragioni o perché probabilmente non si riesce a scappare con qualche altro. Detto questo, quando la donna, come spesso accade ultimamente per fortuna, supera dal punto di vista professionale e sociale l'uomo, beh, diventa molto difficile. La donna o tollera quell'uomo e fa finta di niente, o quell'uomo stesso perde il controllo della situazione, perché gli uomini non sono abituati ad avere una situazione subordinata con le donne. Quindi io credo che i rapporti che funzionano sono sempre quei rapporti almeno paritari, perché l'uomo italiano è fatto così quasi sempre. Siccome ormai spesso. E nelle realtà anglosassoni lei ha osservato la stessa cosa? No, non è la stessa, ma volevo dire, a volte si parte dallo stesso punto di partenza, poi c'è una scelta, c'è una crescita asimmetrica. Lui rimane a 5, lei arriva a 10. E beh, lì poi ci sono problemi. Poi magari ci si lascia, non ci si lascia, ci si riprende, si va avanti, ma il matrimonio è finito. Il matrimonio è finito come inteso come il luogo degli affetti, dell'amore, della passione, è finito. Perché in Italia il 30% delle coppie, secondo alcuni calcoli, si tratta di coppie di separati in casa. E quindi poi veramente vedere. Una fotografia molto più realista di quella dei numeri, avvocato Gassani. Allora, siamo ancora più conservatori di quello che crediamo, questo è emerso da queste ricerche, e lo sapevano Laura Faggin, che ci ha lavorato a questa trasmissione, Silvi Boccaletti, che tanto impegno ha profuso per trovare i numeri, Luca Cremonese, Massimiliano Lollis. Questo è difficile da digerire, ma dalla consapevolezza bisogna partire per poi migliorare. In regia Peter Bescapè, grazie a Gianettore Gassani, presidente dell'Associazione Matrimonialisti Italiani, grazie ai nostri ospiti, da Irene Zerbini. Appuntamento a domani.